Continuerei la nostra lezione guidati dal discepolo amato da Gesù e seguendo la narrazione che lui fa dell'ultima cena e dei giorni più importanti della nostra redenzione. Dopo aver lavato loro i piedi e quando ebbe lavato loro i piedi riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Siamo con Gesù e con gli altri discepoli e ci mettiamo idealmente con loro nel cenacolo. Qualcuna di voi sarà stata in quella sala che a Gerusalemme, che identificata come la sala del cenacolo. Volendo possiamo immaginarci di stare là e in quella sala ampia, al primo piano, ecco, tutta preparata per la cena, la cena pasquale. E Gesù fa questi gesti e poi dice a noi, non solo ai suoi discepoli, dice a tutti noi queste parole, e che sono parole che ci aiutano per tutto il Vangelo, per tutto quello che sappiamo di lui. Gesù dice: voi mi chiamate il Maestro e il Signore, no? Quindi colui che ci insegna, e anche già sono consapevoli, anche se in modo forse non preciso, non pieno, della sua divinità. Signore lo chiamano. E quindi se lui che è il Maestro, che è il Signore, fa questo, anche noi dobbiamo farlo. Tu, Signore, ci insegni la strada. Noi siamo qua in questi giorni davanti a te e insieme a te, e possiamo dire dentro di te, e tu sei dentro di noi, e quindi viviamo ore e giorni di particolare intimità con te, e sappiamo che il fine del nostro cammino, la vita cristiana, a volte la si identifica come, la si chiama un cammino. Negli Atti degli Apostoli veniva, la vita cristiana veniva chiamata la via, la strada. La meta di questa strada è l'identificazione con te, cioè il fatto di essere una cosa sola con te. Quando diciamo, essere una cosa sola, ci viene in mente il matrimonio, che in effetti è come una sola carne, è come un simbolo anche di quello che deve essere il cammino con Gesù. Con Gesù l'identificazione può essere molto più forte, molto più piena. Veramente siamo chiamati a essere un altro Cristo, lo stesso Cristo. Ogni cristiano è una realtà misteriosa ma vera. Siamo chiamati a essere figli nel Figlio, figli di Dio inseriti nel Figlio Gesù. E questo avviene per via di grazia, per via soprannaturale, ma di fatto ha delle manifestazioni esterne, e forse anche il fatto di vivere come Cristo è vissuto ci aiuta tanto a identificarci con Lui, a crescere nell'essere ciascuno di noi un altro Cristo, lo stesso Cristo. Per cui noi cominciamo subito a considerare queste cose, e guidati dalla parola del Signore, guidati dallo sguardo di quel discepolo amato che poi scrisse questo Vangelo, o raccontava comunque queste cose nel suo insegnamento. E quindi lui dell'ultima cena si ricorda in primo luogo questo fatto, che Gesù lavò i loro piedi, e poi gli chiese esplicitamente di fare lo stesso. Anche in questi giorni noi siamo in raccoglimento, siamo in preghiera, la cosa più importante è questa, e senz'altro la custodiamo. Allo stesso tempo non ci dimentichiamo mai che siamo fratelli, no? Che siamo fratelli e sorelle, quindi ci aiutiamo gli uni gli altri con la preghiera e con l'aiuto fraterno, con l'ascolto, con il consiglio. Gesù, queste parole che tu ci dici, stavo per dire questa sera, invece è già mattina, questa sera nella cena, no? Che tu ci dici, ci aiutano molto se noi le manteniamo dentro di noi e le meditiamo e guardiamo la nostra vita alla luce di queste parole. Quindi è così importante, Gesù, pensiamo alla nostra vita, che io faccia tutte quelle cose a servizio degli altri, innanzitutto dei familiari, per chi è sposata, il marito, i figli, no? La maggior parte di voi, i genitori, insomma, ecco, i fratelli. E poi nell'ambiente professionale tutte le persone con cui collaboriamo, e poi nella realtà della Chiesa dove noi siamo inseriti, è lo stesso, no? Allora che noi ci laviamo i piedi gli uni gli altri, forse in molti casi non c'è l'abitudine, non c'è, no? Prevalgono delle virtù che forse non sono del tutto cristiane, o comunque desideriamo rivederle, no? Insomma, una sorta di rispetto, di riservatezza, di non voler dare fastidio, che sono ovviamente virtù importanti, ma che devono essere innervate dall'interesse per gli altri, dalla cura per gli altri, dal desiderio di dare la vita per gli altri. E quando tu, Gesù, dici che un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo hai mandato, e a che cosa ti riferisci? Forse ti riferisci a quello che poi dirai più tardi, a quello che avverrà nei giorni successivi, al fatto che se a te è successo questo, no? Che dando la vita per i tuoi amici e per tutti noi, no? E rivelandoci il segreto del Padre, il volto del Padre, allora tu ti sei esposto alla critica, ti sei esposto all'incomprensione, ti sei esposto al tradimento e quindi poi alla via della croce. E quando tu dici che un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato, sapete che la parola ebraica che sta sotto alla traduzione greca di apostolo, quindi è proprio inviato, era una figura anche giuridica, no? Attraverso, cioè, una persona che un possidente inviava e poteva fare un contratto a suo nome, come se fosse il padrone, no? di quel bene, di quel terreno, oppure faceva un patto di pace, ecco, con un popolo vicino, se era l'inviato del re. E quello che lui diceva e che lui faceva valeva come se fosse colui che l'ha mandato, no? È molto interessante questo, perché gli apostoli sono il Signore. E Gesù lo dice a noi, no? E lo dice anche, ecco, tra poco, in queste parole. Però se siamo inviati da Lui, non possiamo pretendere di essere più di Lui. Queste parole ci possono dare una grande luce per comprendere la nostra vita, quello che accade a volte, no? Nella nostra esistenza. A volte quello che accade nella nostra esistenza si comprende proprio alla luce del fatto di considerarci, di essere, perché lo siamo, inviati dal Signore, mandati da Lui. E quindi non siamo più grandi di te, Gesù. E quindi quello che è accaduto a te può accadere anche a noi, spesso in misura molto minore, molto più piccola. E noi questo lo dobbiamo mettere in conto se ci lanciamo a servire, se ci lanciamo ad aiutare, a dare la vita. Anche ho parlato prima del matrimonio e molte di voi stanno pensando, giustamente, no, in questi giorni, al proprio matrimonio, al proprio sposo, e questa realtà così fondamentale della vostra vita, e io mi sto preparando, a un matrimonio di un nipote, no, che accadrà in giugno, e quindi ci stiamo incontrando per qualche momento di preparazione. E allora, ecco, io penso, immagino qui ai piedi dell'altare, quando i due sposi si donano la vita l'uno all'altra, no? Anche questo è un dare la vita. In Infatti spesso Gesù è uno dei paragoni che fa della sua missione. Lui è lo sposo per tutti noi, è colui che dà la vita come sposo. E poi è un'immagine che usava, che risale al profeta Osea, no? Il popolo di Israele come quella donna che si era perduta e il profeta la porta nel deserto e la purifica e la rende sua sposa. Così fa il Signore con noi. E donarsi nel matrimonio vuol dire donare la vita. Vuol dire fare come Gesù. E anche in quel cammino e ci possono essere da parte della sposa e anche dello sposo, da entrambe le parti, momenti che ci identificano con Gesù anche da questo punto di vista, no? della fatica di essere compresi o del non riconoscimento, perlomeno apparente a volte anche reale, di tutto quello che facciamo, no? Del nostro donarci, del nostro sacrificio. Da Gesù in questi casi va oltre, no? Cioè si dona ancora di più. Sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Quindi questa è una delle beatitudini così sparse nel Vangelo, no? Ci sono quelle 8 beatitudini del discorso di San Matteo sul monte e poi ce ne sono altre così sparse. E questa è una ed è molto bella, molto importante, no? Sarete beati se metterete in pratica queste cose, cioè lavarvi i piedi gli uni gli altri e anche sapere che non c'è discepolo più grande del Maestro. Quindi non meravigliarci se viene il momento della prova, quando intraprendiamo la strada del seguire Gesù da vicino, del donarci agli altri, del servire. E non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. Anche questo è sorprendente, cioè in quest'ultima cena, come però accade un po' anche negli altri Vangeli, accade in tutti i Vangeli, cioè se noi leggiamo il Vangelo siamo abituati a leggerlo per piccoli pezzi, no? Quindi nella chiesa, nella messa, si legge un pezzettino e poi anche forse quando lo leggiamo per conto nostro, no? È un'ottima abitudine perché il Vangelo è molto denso, è ricchissimo, è parola di Dio, quindi è inesauribile. Già i rabbini dicevano che aveva 77 facce la scrittura, ma cioè, che vuol dire infiniti significati e ricchezze, no? Quindi il Vangelo ha maggior ragione, noi lo portiamo nelle solennità, in processione, nella liturgia si porta in alto, no? E poi lo si fa baciare dal vescovo e così via, no? Lo veneriamo, il Vangelo, i 4 Vangeli. però se noi lo leggessimo, come dire, più così, con brani più ampi, di continuo, ci renderemmo conto, come in modo più vivo, di come nel Vangelo è mescolato la luce con le tenebre, le cose belle con le cose difficili, dure, no? La croce con la risurrezione. Quindi questo accade in tutta la vita di Gesù, e in modo particolare in questo momento sublime dell'ultima cena, cioè e della passione, morte e risurrezione. Cioè si mescola la realtà più sublime con la prova, no? Con il tradimento. Ed è qualcosa che è mescolata con tutta la provvidenza di Dio, cioè che è scritto nella scrittura. Non è un incidente di percorso, non è, ecco, ci siamo distratti, abbiamo fatto un errore, dovevamo stare più attenti, dovevamo essere più prudenti. Non è quello. Per me non è solo quello. Lo dico per ciascuno di noi, per quello che accade a noi e per quello che anche può accadere nella storia della Chiesa. È qualcosa che c'è scritta nella scrittura. E ve lo dico fin d'ora perché accada, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono, cioè quando accadrà questo tradimento che lo porterà fin sulla croce, i discepoli potranno credere che Gesù è Dio, perché quando lui dice crediate che io sono, sta dicendo con le sue parole di uomo, con la sua, tu Gesù stai dicendo con la tua voce di uomo, con il timbro della tua voce che noi vorremmo tanto conoscere e che conosceremo, inconfondibile, unica. Stai dicendo con la tua voce di uomo, con la tua voce che Maria Santissima conosce benissimo, perché fin da quando eri bambino ha ascoltato i tuoi primi gemiti o versi, i primi tentativi del bambino di parlare, no? E poi ha assistito al cambiamento della tua voce, no? Quando sei diventato adolescente. La voce del bambino che è diventata voce di adolescente ancora incerta, con gli alti e bassi della voce dell'adolescente, e poi la tua voce di uomo. Quindi con quella tua voce di uomo che i discepoli conoscono bene, con la quale tu li hai chiamati, seguimi, li hai chiamati per nome, e tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, seguitemi, vi farò pescatore di uomini. E con la stessa voce che loro hanno imparato a conoscere, che voce potente, no? Che si faceva sentire in riva al lago di Tiberiade o sulla cima del monte delle Beatitudini, o insomma per le città e i villaggi. Con quella voce quest'uomo dice io sono, che sono le parole che Dio dice a Mosè quando Mosè gli chiede il suo nome davanti al rovetto ardente, e chi devo dire che mi manda, no? Al mio popolo. Io sono colui che sono è il nome di Dio, è uno dei nomi di Dio. Che significa anche non solo io sono l'essere, ma come spiega bene il teologo Ratzinger nel suo libro Introduzione al Cristianesimo, significa anche io ci sono, io sono accanto a te, io sono presente nella tua vita. Io non vengo mai meno. Io ci sono sempre. Quindi è sorprendente, è sconvolgente, ma è per noi molto illuminante vedere che da un episodio che umanamente diremmo un disastro, una sconfitta, anche una sconfitta, se noi lo vedessimo umanamente, cioè con le categorie umane del successo o del fallimento, ha fallito uno dei 12 lo ha tradito. Eppure questo è previsto nella scrittura e poi diventa il momento in cui gli altri possono credere che lui è veramente Dio. È il paradosso, no? Potrebbero scappare, di fatto poi sappiamo che scappano, però poi ritornano dalla croce pensando era tutto falso, oppure ecco, le sue parole non valgono perché è stato messo sul legno e come i maledetti da Dio. Invece per Gesù è il momento in cui loro possono credere che lui è Dio, proprio perché glielo ha anche previsto, glielo ha anticipato. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Queste parole noi le possiamo, poi altre volte dice parole simili di Gesù, tu dici parole simili di noi, cioè dei tuoi discepoli, dei cristiani, degli apostoli, cioè chi accoglie voi accoglie me. E come dicevamo prima, l'apostolo significa colui che lo ha inviato. Testimonia, rende presente colui che lo ha inviato, non testimonia tanto se stesso, no? Però in queste, se guardiamo bene queste parole, è un anticipo della promessa dello Spirito Santo. Chi accoglie lo Spirito Santo che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato, cioè il Padre. Gesù, tu ci stai parlando della tua vita intima, ci stai parlando della Trinità di Dio. Noi vorremmo in questi giorni fare un po' più di esperienza della Trinità, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, e ti chiediamo, mandaci lo Spirito Santo in questi giorni, mandalo su di noi, mandalo dal cielo, manda un raggio della tua luce. E lo Spirito Santo, ecco, senza di lui, diremo nella messa di Pentecoste, non c'è nulla di buono nell'uomo, nulla senza colpa, no? E noi ci affidiamo allo Spirito Santo, noi amiamo lo Spirito Santo, noi ci sentiamo illuminati dallo Spirito Santo, ma ti chiediamo, vogliamo accoglierlo, mandalo ancora di più, molto di più in questi giorni, a noi, su di noi, che siamo riuniti qui nel Cenacolo. Il Cenacolo è il luogo dello Spirito Santo. Quando ho fatto il mio pellegrinaggio in Terra Santa, il primo, quando arrivavamo sul lago di Genezaret, e come spesso succede nei pellegrinaggi, c'era molta fretta di riuscire a fare la messa prima che arrivasse un altro gruppo, e scegliemmo rapidamente, mi chiesero, vuoi farla qui nella casa di Pietro oppure in riva al lago? E ho detto in riva al lago, no? E perché quel luogo mi parlava molto dell'Eucaristia, perché era quel discorso di Gesù. E allora nelle tre messe possibili che c'erano lì, c'era l'Eucaristia, poi la casa di Pietro e anche la chiamata degli Apostoli, ho scelto subito l'Eucaristia. Poi la guida mi ha detto, ma però l'Eucaristia veramente in genere la facciamo nel Cenacolo. E io, no, ero inesperto, era il primo pellegrinaggio, Beh, comunque troveremo una soluzione poi, e poi nel cenacolo abbiamo fatto la messa dello Spirito Santo. E sì, perché è il luogo della Pentecoste. A volte ce lo dimentichiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito. E Maria, Maria e con gli Apostoli, quando arriva lo Spirito Santo, lì nel cenacolo, prega con loro, come adesso Maria è qui con noi, prega con noi, adesso ci accompagna alla messa, no? E alla comunione. Le chiediamo, prega con noi perché scenda copioso sulle nostre anime in questi giorni lo Spirito del tuo Figlio.